Il mal maritato da Favole di Jean de La Fontaine, tradotto da Emilio De Marchi, registrato per LibriVox.org da Paolo Fedi, agosto 2007, Roma. Se la bellezza andasse ognor congiunta con la bontà del cor, prometto a Dio che prendo moglie domattina anch'io. Ma il bello e il buono, ahimè, fanno divorzio sovente, e tanto rare son l'anime belle in care forme che meglio è tralasciare. Di quanti veggo matrimoni, alcuno non è che mi concili con Imene, anzi, di quattro quarti almen degli uomini che stendono le braccia alle catene, di non pentito non trovai veruno, e per non dir tutti dirò solo di un tal che la gelosa donna avara, crucciosa e tormentosa, se volle uscir da orribili tormenti, dovette rimandare ai suoi parenti. Nulla poteva contentar costei, nulla era bello e mai degno di lei. A letto ci si andava troppo presto e troppo tardi si scendeva poi. O bianco o nero che faceste voi, o bigio, era la stessa cantilena, mattina e sera. I servi arrovellavano e lo sposo n'avea la zucca piena. A sentirla davvero era un tormento. Lui non pensa, non fa, non guarda a nulla. Lui corre, lui sonnecchia, lui questo, lui codesto, ogni momento. Infil che pover uomo, quando n'ebbe ben rotta l'orecchia, la rimandò in campagna presso i suoi a far la ninfa in mezzo all'oche e ai buoi. Dopo un bel pezzo a casa la ripiglia, sperando che le sian passati i grilli. Ebbene, mia dolce figli, v'è piaciuta dei campi l'innocenza e il soggiorno seren della famiglia? Ah, non parlarne, cosa, ella risponde, indegna, vergognosa, veder la gente oziosa, inetta e senza premura per la casa e per gli armenti. Questi servi non sono più indolenti, e perché voglio un po' farmi sentire, non ti dico il furor e l'odio e l'ire. Oh, cara mia, riprese allor lo sposo, se il vostro umor è sempre agro e rabbioso, che non possono soffrire anche i bifolchi, quando un momento tornano dai solchi, come regger potranno tutto il giorno i vostri servi che vi stanno intorno? E come non ne avrà le calze rotte quel povero marito che voi volete insieme anche la notte? Tornate a casa vostra, e se pentito vi chiamerò per mio tristo destino, possa morire e avere nell'inferno due donne come voi sempre vicino, il mio castigo eterno. Fine della favola, il mal maritato. Questa registrazione è di dominio pubblico.